È sempre toccante e ispira riguardoso rispetto parlare delle persone che hanno appena varcato la soglia oscura verso il nulla o verso ultramondi inimmaginabili, parlare delle persone che hanno appena lasciato noi alla vita. Infatti, per dire che di un morto si deve parlare oggettivamente, senza emozioni, si dice parlandone da vivo. Io di Paolo De Benedetti qui devo parlare da vivo. De Benedetti è stato il principe dei teologi ebraici della compassione per gli animali, o meglio, della fraternità creaturale con gli animali. I suoi scritti imperversano ovunque si cerchi di reperire animalismo nelle tradizioni ebraica e cristiana. Quindi il suo influsso etico sull'atteggiamento dei credenti è stato certamente positivo. Bisogna dargliene atto ed esprimergli riconoscenza. Altra cosa è valutare il suo messaggio animalista e non violento sul piano della correttezza storiografica e della probità intellettuale. Qui mi sento con lui in un rapporto simile a quello tra materia e antimateria. Leggerlo mi dà un disagio quasi continuo. Vediamo quali sono le ragioni del mio disagio. La prima è che lui usa continuamente la parola che inizia per D, cioè il nome che non va nominato invano. E della super cosa designata dal nome parla come se sapesse com'è fatta, cosa pensa, che sentimenti prova, che destino assegna alle sue creature. Scelgo un'unica frase, cito: la benedizione divina degli animali perdurerà dalla creazione fino alla fine dei tempi, quando ritroveremo gli animali nella vita eterna. Infatti, anche se la teologia ha gravemente trascurato questo aspetto, occorre riconoscere con fede piena la resurrezione di tutto ciò che ha avuto la vita, animali e piante. Se ciò non avvenisse, bisognerebbe riconoscere che la morte è più potente di D, che la morte vince in eterno la vita. Fine della citazione. Beh, io, sulla super cosa che ho studiato per anni, sono apofatico, cioè sono nella notte oscura, nel silenzio altamente informato. E sull'idea che tutte le realtà della storia dell'universo saranno conservate per sempre, saranno rese eterne dal gesto di una potenza infinita, beh, forse sono troppo epistemologicamente timido per osare credere probabile un avvenimento del genere. La seconda ragione del mio disagio è filologica. La probità intellettuale vuole che i significati del testo vengano riconosciuti dall'interprete in proporzione all'importanza che hanno nel testo stesso, non in proporzione ai desideri dell'interprete. Ora, De Benedetti, mosso dal suo generoso e condivisibile amore per gli animali, si costruisce tutto da solo la sua wishful Bible, la sua Bibbia fai da te, omettendo tutte le parti che rendono la Bibbia, tra tante cose belle, anche uno dei testi più spaventosamente violenti della letteratura religiosa mondiale. Lascio la violenza sugli uomini, le pene di morte per tutti i peccati interni, i genocidi integrali dei nemici esterni, mi limito agli animali. Al mite Caino, che offriva fiori e profumi come gli egiziani, viene preferito il crudele Abele, che offriva la carne, il grasso e il sangue degli animali. A Noè e ai suoi familiari, rimasti gli unici esseri umani sulla terra, una famigliola decisiva, viene detto: siate fecondi, moltiplicatevi e riempite la terra, e incutete paura e terrore a tutti gli animali della terra e a tutti gli uccelli del cielo. Essi sono dati in vostro potere con tutto ciò che striscia sulla terra e con tutti i pesci del mare. Tutto ciò che si muove e che ha vita vi sarà di cibo. Abramo riceve in premio una progenie infinita per avere offerto in sacrificio prima suo figlio, poi, in sostituzione del figlio, un montone. Mangiare la carne degli animali è biblicamente normale e, per opera dei sacerdoti, gli animali subiscono fino a oggi, voluto e gradito dall'alto, un sacrificio perpetuo. Cito solo Salomone, il più saggio e divinamente approvato re di Israele, costruttore del Tempio e del Santo dei Santi. Cito letteralmente: Il re e tutto Israele con lui sacrificarono davanti a Yahweh. Come sacrifici di comunione che presentò a Yahweh, Salomone offrì 22.000 buoi e 120.000 pecore, e il re e tutti gli israeliti dedicarono il tempio di Yahweh. In quel giorno il re consacrò il centro del cortile che sta davanti al tempio di Yahweh. È lì che offrì l'olocausto, l'oblazione e le parti grasse dei sacrifici di comunione, perché l'altare di bronzo che stava dinanzi a Yahweh era troppo piccolo per contenere l'olocausto, l'oblazione e le parti grasse dei sacrifici di comunione. Primo libro dei Re 8, 62-64. Insomma, per la Bibbia un sacrificio degno era un olocausto di 140.000 mammiferi. Mi sembra che di fronte a questi passi le norme bibliche citate da Benedetti, come il rispetto dell'ozio sabbatico esteso oltre che allo schiavo e alla schiava, anche al bue e all'asino, oppure i comandi del tipo non scannerete vacca o pecora lo stesso giorno con il suo piccolo, non farai cuocere un capretto nel latte di sua madre, siano testimonianze ben poco probanti di una divina misericordia per gli animali. In conclusione, e parlandone da vivo, grazie a De Benedetti per il suo animoso impegno teologico pro animali, ma non è filologicamente una buona idea, anche se si spiega psicologicamente in un credente bisognoso di avere un Dio buono, cercare ispirazione o conferma nella Bibbia.